Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Per qualche altra sera insistetti a vagabondare a caso per le strade della città, osservando tutto, attirato imparzialmente da tutto, dai grossi titoli dei giornali che tappezzavano le rivendite del centro, titoli a caratteri cubitali, sottolineati d'inchiostro rosso, dalle fotografie dei film e degli avanspettacoli esposte di fianco agli ingressi dei cinema, dai conciliaboli degli ubriachi, fermi nel mezzo dei vicoli della città vecchia, dalle targhe delle automobili allineate in piazza del Duomo e dai tipi diversi delle persone che uscivano dai bordelli o via via sbucavano dall'oscuro frascame del Montagnone per venire a consumare gelati, birre o gazzose al banco di zinco d'un chiosco sorto di recente sugli spalti di San Tommaso in fondo alla Scandiana. Una sera verso mezzanotte, senza sapere nemmeno io perché, che cosa cercassi veramente, ero dalla parte opposta della città, a pedalare lungo il viottolo di terra battuta che correva, liscio e appena sinuoso, sul ciglio interno della Mura degli Angeli. C'era una magnifica luna piena, così chiara e luminosa, nel cielo perfettamente sereno, da rendere superfluo l'uso del fanale. Pedalavo adagio. Sdraiati nell'erba, ai piedi degli alberi, mi si scoprivano sempre nuovi innamorati. Contavo le coppie ad una, macchinalmente. Alcuni, avvinghiati, si agitavano uno sull'altro, mezzo nudi. Altri stavano distesi, già separati, la mano nella mano. Altri, abbracciati, ma immobili, sembrava che dormissero. Contai via via più di 30 coppie. E sebbene a volte passassi loro così vicino da sfiorarli con la ruota, nessuno mai che desse segno di accorgersi della mia presenza silenziosa. Mi sentivo ed ero una specie di strano fantasma trascorrente, pieno di vita e di morte insieme, di passione e di distaccata pietà. Arrivato che fui all'altezza del barchetto del Duca, mi fermai. Scesi di bicicletta, l'appoggiai al tronco di un albero e per qualche minuto, rivolto alla ferma e argentea distesa del parco, rimasi lì, a guardare. Non pensavo a niente di preciso, direi, ma a molte cose una dopo l'altra, senza indugiare su nessuna in particolare. Guardavo, ascoltavo il gridio sottile e immenso dei grilli e delle rane, ed ero io stesso meravigliato del sorriso leggermente imbarazzato che mi stirava le labbra. «Eccoci qua», mormorai. Non sapevo cosa fare, cosa fossi venuto a fare. Ero penetrato dal vago senso di inutilità di tutte le commemorazioni. Cominciai a camminare lungo l'orlo del pendio erboso, gli occhi fissi alla Magna Domus. Tutto era spento laggiù, e quantunque le finestre della camera di Nicole dessero a mezzogiorno e perciò non potessi vederle, non di meno ero certo, chissà perché, che anche da esse non trapelasse la minima luce. Giunto infine a dominare esattamente dall'alto il punto del muro di cinta sacro, come diceva Nicole, au vert paradis des amours enfantines, fui assalito a un tratto da un'idea. E se fossi entrato nel parco di nascosto, scalando il muro? Da ragazzo, in un lontanissimo pomeriggio di giugno, non avevo osato farlo, avevo avuto paura. Ma adesso? Di che cosa potevo aver mai paura? Adesso. Diedi una rapida occhiata in giro e di lì a un attimo ero già ai piedi del muro, ritrovando di colpo, nell'ombra affusa, lo stesso odore di ortiche e di sterco di 10 anni prima. Ma la parete del muro, no, era diversa. Forse proprio perché invecchiata di 10 anni. Anch'io ero invecchiato di 10 anni nel frattempo e cresciuto di statura e di forza. Non mi sembrò né tanto impervia né tanto alta come la ricordavo. Dopo un primo tentativo fallito accesi un fiammifero. Ecco tutti gli appigli necessari ed ecco perfino il grosso chiodo rugginoso là che ancora sporgeva dalla parete. Al secondo tentativo lo raggiunsi subito e afferrandomi ad esso mi fu poi molto facile tirarmi a forza di braccia fino in cima. Non appena seduto lassù, con le gambe penzoloni dall'altra parte, la prima cosa che notai fu una scala a pioli appoggiata al muro lì sotto. Non ne fui sorpreso, ma la circostanza semmai mi divertì. Toh, constatai, anche la scala. Prima, comunque, di iniziare la discesa, mi girai un momento indietro, verso la mura degli angeli. La bicicletta era ancora al suo posto, appoggiata al tronco del tiglio dove l'avevo lasciata. Era una vecchia bicicletta, un catenaccio che ben difficilmente avrebbe fatto gola a qualcuno. In breve, con l'aiuto della scala, toccai terra e immediatamente, abbandonato il sentiero parallelo alla base del muro di cinta, tagliai giù per il prato, sparso di alberi da frutta, contando, attraverso di esso, di raggiungere rapidamente il viale principale in un punto pressappoco equidistante dalla casa colonica dei Perotti e dal ponte di travi sul Panfilio. Calpestavo l'erba senza far rumore, sempre vuoto di pensieri, preso, sì, ogni tanto da un principio di scrupolo, ma ogni volta con una scrollata di spalle, rimuovendo facilmente sul nascere l'insorgere dell'ansia e della preoccupazione. Com'era bello, di notte, il barchetto del duca, mi dicevo. Con quanta dolcezza la luna lo illuminava. Io non cercavo niente, fra quelle ombre di latte, in quel mare di latte e d'argento. Nessuno, anche se fossi stato sorpreso ad aggirarmi lì, avrebbe potuto farmene un carico eccessivo. Dopotutto, a ben considerare, ne avevo perfino qualche diritto, oramai. Uscii nel viale. Varcai il ponte sul Panfilio, quindi piegando a sinistra, guadagnai ben presto la radura del tennis. Era esatto. Il professor Ermanno aveva mantenuto la promessa. La rete metallica di recinzione, abbattuta, giaceva in un confuso cumulo luminescente di fianco al campo, dalla parte opposta a quella dove solitamente stavano allineate le seggiole di Vimini e le chaise longue per gli spettatori. Di più, i lavori di ampliamento del terreno di gioco avevano già avuto inizio, giacché lungo i quattro lati di esso il prato risultava in via di dissodatura per una fascia di almeno 3 metri lungo le linee laterali e di 5 dietro quelle di fondo. Alberto era ammalato, ammalato gravemente. Bisognava pur nascondergli in qualche modo, anche in quel modo, la gravità del suo male. Ottimamente, approvai. E passai oltre. Mi inoltrai allo scoperto, col proposito di compiere un largo giro attorno alla radura, né mi meravigliò, quando ero già molto lontano dal tennis, di vedere avanzare a un tratto, proveniente al piccolo trotto dalla parte della hütte, la grossa sagoma familiare di Jor. Lo aspettai a piè fermo e anche il cane, appena fu a una decina di metri di distanza, si fermò. Jor, chiamai a voce soffocata. Jor! Jor mi riconobbe, evidentemente. Impresse alla coda un breve, pacifico moto di festa, tornando quindi adagio sui propri passi. Si voltava ogni tanto, come per assicurarsi che lo seguissi. Ed io non lo seguivo, invece. O meglio, pur avvicinandomi progressivamente alla hütte, non mi discostavo dal margine estremo della radura. Camminavo a una ventina di metri dal curvo schieramento dei grandi, bui alberi di quella zona del parco, il viso sempre rivolto a sinistra. La luna ora l'avevo alle spalle. La radura, il tennis, il cieco sperone della Magna Domus e poi, là in fondo, incombente sopra le cime fronzute dei meli, dei fichi, dei susini, dei peri, lo spalto della mura degli angeli, tutto appariva chiaro, netto, come in rilievo, in luce meglio che non di giorno. Così procedendo, mi accorsi a un certo punto di trovarmi a pochi passi dalla hütte, non di fronte, dal lato di essa che guardava verso il campo di tennis, ma dietro, fra i tronchi dei giovani abeti e dei larici a cui si addossava. Qui mi fermai. Fissavo la nera, scabra forma in controluce della hütte. improvvisamente incerto, non sapevo più dove andare, dove dirigermi. Che fare? Dicevo intanto a mezza voce, perplesso. Che fare? Fissavo sempre la hütte e adesso pensavo, senza che nemmeno a questo pensiero il mio cuore accelerasse i suoi battiti, indifferente ad accoglierlo come un'acqua morta si lascia attraversare dalla luce, adesso pensavo che, sì, se dopo tutto era qua, da Micol, che Giampi Malnate veniva tutte le notti, dopo avermi lasciato sulla soglia del portone di casa. Perché no? Non era per questo, magari, che lui si radeva sempre con tanta cura prima di uscire con me a cena? Ebbene, in questo caso, lo spogliatoio del tennis avrebbe potuto essere un magnifico rifugio per loro. Ma sì, continuavo quietamente a ragionare, in una sorta di svelto bisbiglio interno. Ma certo, come avevo potuto essere talmente cieco? Lui veniva in giro con me, tanto per far tardi, e poi, dopo avermi, per così dire, messo a letto, via, a pieni pedali, da lei, la quale, naturalmente, lo aspettava in giardino. Ma certo, adesso capivo il vero perché di quel suo gesto al casino. Eh già, a far l'amore tutte le notti, o quasi, hai voglia. Arriva presto il momento che uno rimpiange la mamma, il cielo di Lombardia, eccetera. E la scala, là, contro il muro di cinta. Non poteva essere stata che Micol a mettercela, in quel punto. Ero lucido, sereno, tranquillo. Come in un gioco di pazienza, ogni pezzo si incastrava al millimetro. Tutti i conti tornavano perfettamente. Micol, sicuro, con Giampi Malnate, con l'amico intimo del fratello ammalato, di nascosto da lui e da tutti gli altri di casa, genitori, parenti e servi, sempre di notte, nella hütte, normalmente, ma chissà, certe notti forse anche lassù, in camera da letto, la camera dei lattimi. Di nascosto proprio? Oppure gli altri, come sempre, fingevano di non vedere, lasciavano correre, anzi, sotto sotto favorivano, giacché in fondo è umano e giusto che una ragazza a 23 anni, se non vuole o non può sposarsi, abbia lo stesso tutto ciò che natura comanda. Anche la malattia di Alberto fingevano di non vederla in casa. Era il loro sistema. Tesi l'orecchio. Silenzio assoluto. E Ior, tuttavia? Dove era finito Ior? Mossi qualche passo in punta di piedi verso la hütte. Ior! Chiamai forte. Ma ecco, come in risposta, arrivare a un tratto di lontanissimo, attraverso l'aria notturna, un suono flebile, accorato, quasi umano. Lo riconobbi subito. Era il suono della vecchia, cara voce dell'orologio di piazza che stava battendo le ore e i quarti. Che cosa diceva? Diceva che ancora una volta avevo fatto molto tardi, che era sciocco e cattivo da parte mia continuare a torturare così mio padre, il quale certo anche quella notte, in pensiero perché non rincasavo, non riusciva a prender sonno, e che infine era tempo che mettessi l'animo in pace, veramente, per sempre. Che bel romanzo, sogghignai, crollando il capo come davanti a un bambino incorreggibile. E, date le spalle alla hütte, mi allontanai fra le piante, dalla parte opposta. La mia storia con Micol Finzi-Contini termina qui. E allora è giusto che anche questo racconto abbia termine ormai, se è vero che tutto quello che potrei aggiungervi non riguarderebbe più lei, ma nel caso soltanto me stesso. Di lei e dei suoi ho già detto in principio quale sia stata la sorte. Alberto morì di linfogranuloma maligno prima degli altri, nel 42, dopo un'agonia lunghissima a cui, nonostante il solco profondo scavato nella cittadinanza dalle leggi razziali, si interessò di lontano tutta Ferrara. Soffocava. Per aiutarlo a respirare c'era bisogno di ossigeno in quantità sempre maggiore, E poiché in città, a causa della guerra, le bombole scarseggiavano, negli ultimi tempi la famiglia ne compì una vera e propria incetta attraverso l'intera regione, mandando gente ad acquistarle a qualsiasi prezzo a Bologna, a Ravenna, a Rimini, a Parma, a Piacenza. Gli altri, nel settembre del 43, furono presi dai repubblichini. Dopo una breve permanenza nelle carceri di via Piangipane, nel novembre successivo furono avviati al campo di concentramento di Fossoli, presso Carpi, e di qui in seguito in Germania. Per ciò che riguarda me, tuttavia, devo dire che durante i 4 anni intercorsi fra l'estate del 39 e l'autunno del 43, non avevo più visto nessuno di loro, nemmeno Micol. Ai funerali di Alberto, dietro i cristalli della vecchia di Lambda, adattata a funzionare a metano, che seguiva a passo d'uomo il corteo e che poi, non appena il carro funebre ebbe varcato il cancello in fondo a via Montebello, tornò subito indietro, era sembrato un attimo di distinguere il biondo cenerino dei suoi capelli. Nient'altro. Anche in una città così piccola come Ferrara si riesce benissimo, volendo, a sparire per anni e anni gli uni agli altri, a convivere assieme come dei morti. Quanto a Malnate, che era stato chiamato a Milano fin dal novembre del 39, mi aveva cercato inutilmente per telefono nel settembre, mi aveva perfino scritto una lettera, neanche lui l'ho più riveduto dopo l'agosto di quell'anno. Povero Giampi, lui ci credeva, in quello sì, nell'onesto futuro lombardo e comunista che gli sorrideva allora, di là dal buio della guerra imminente. Un futuro lontano, ammetteva. Però sicuro, infallibile. Ma che sa il cuore, davvero. Se penso a lui, partito per il fronte russo nel 41 e non più ritornato, ho sempre vivo in mente il modo come reagiva Micol tutte le volte che, fra una partita di tennis e l'altra, lui ricominciava a catechizzarci. Lui parlava con la sua voce quieta, bassa e ronzante, ma Micol, a differenza di me, non gli dava mai molta retta. Non smetteva di ridacchiare, di punzecchiarlo, di prenderlo in giro. Ma tu per chi stai, insomma? Per i fascisti? Ricordo che lui le chiese un giorno, scuotendo la grossa testa sudata. Non capiva. Che cosa dunque c'è stato fra loro due? Niente? Chissà. Certo è che, quasi presaga della prossima morte, sua e di tutti i suoi, Micol ripeteva di continuo anche a Malnate che a lei, del suo futuro democratico e sociale, non gliene importava nulla, che il futuro in sé lei lo aborriva, adesso preferendo di gran lunga le Vierges, le Vivaces e le Belles Aujourd'hui, e il passato ancora di più, il caro, il dolce, il pio passato. E siccome queste, lo so, non erano che parole, le solite parole, ingannevoli e disperate, che soltanto un vero bacio avrebbe potuto impedirle di proferire, di esse, appunto, e non di altre, sia suggellato qui quel poco che il cuore ha saputo ricordare. Buon ascolto a tutti, sono Roberto Galaverni e sono qui per un brevissimo commento finale a questo intensissimo romanzo che è Il giardino dei Finzi Contini, di cui gli ascoltatori di Alto a Voce hanno avuto la fortuna, insomma, di ascoltare la lettura integrale. Soltanto 3 annotazioni. Da un lato che questa scrittura così apparentemente naturale, spontanea, disinvolta di Bassani è il frutto di una conquista stilistica. Bassani diceva di non essere uno scrittore di natura, dotato di un particolare dono, e che ogni pagina gli costava davvero una fatica incredibile. Infatti, uno scrittore di continui poi ritorni su se stesso, di varianti, di aggiustamenti. Ma questo fatto che quello stile, questa narrazione così poetica e incisiva sia stato conquistato, garantisce appunto del suo valore. La seconda cosa riguarda Ferrara, che inizialmente Bassani nella sua opera indicava soltanto con F puntato e che poi diventa più per esteso ed esplicitamente Ferrara. C'è anche una pagina di Pasolini molto bella su questo passaggio. E come sempre nella grande narrativa, questo luogo è un luogo particolare, ma anche un luogo universale. Un altro grande narratore, Paolo Volponi, diceva proprio che locale, e quindi non localistico, fa rima con universale. E così è nella narrativa di Bassani. Terza e ultima cosa con la quale vi saluto è questa. Dov'è il giardino, alla fine, il giardino dei Finzi Contini? Credo che sia difficile dirlo e che forse ogni lettore che ha amato questo romanzo, e dunque gli ascoltatori anche che hanno avuto l'opportunità di ascoltarlo e di sentirlo e di condividerlo, sappiano che in realtà quel giardino da qualche parte, penso anche con loro, sia presente e vivo. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, postfazione di Roberto Galaverni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.